In una breve prefazione ad un mio libro nel 1964 dicevo che la narrazione, una volta effettuata, diventa estranea all'autore e riceve l'investitura di prodotto in un ciclo economico. Parlavo allora della narrazione dell'autore come di una formula genetica irrimediabilmente scomposta. Volevo con ciò manifestare tutta la mia consapevolezza circa la caducità dell'umano produrre e circa l'intrinseca libertà di manipolazione, anche da parte di Lestofanti e di Inetti, a cui l'umano produrre in quanto tale deve sottostare. Alla faccia della presunta sacralità dell'arte e dei diritti sovrastorici che spesso vengono attribuiti all'artista. Il che peraltro non voleva dire che, allora come oggi, qualsiasi scempio mercantile mi andasse bene. Libri e film costituiscono un ricco terreno di esempi in materia. Per i libri gialli poi la manipolazione del titolo sembrerebbe quasi d'obbligo. Classico. The Clue of Silver Key di Edgar Wallace, prova d'inglese, per esempio, mi ricordo, divenne Il giorno 17. Straordinario. Agatha Christie è una che ha sofferto moltissimo di questa procedura. The Murder of Roger Ackroyd è diventato dalle 9 alle 10, ma il caso più drammatico è Five Little Pigs, 5 piccoli porcellini, il ritratto di Elsa Greer. Perfetto. Ecco, l'elenco di questi soprusi potrebbe valere un volume intero dei gialli Mondadori. Ecco, si potrebbe regalarlo ai lettori, se non altro per ringraziarli della pazienza fino ad ora dimostrata. Con il cinema che è stato forse rispettato più a lungo, oggi le cose peraltro non vanno molto meglio. Le reti Fininvest sono abilissime nel truccare i film cambiandogli titolo o presentandoli per la prima volta con il loro titolo originale, in modo da offrire novità che novità non sono più. All'origine di queste manipolazioni, nei libri come nei film, ovviamente ci stanno per lo più soltanto basse questioni di quattrini. Ingannare il cliente perché ricompri con moneta sonante qualcosa per cui ha già sborsato, o addirittura qualcosa per cui si era ben guardato dallo sborsare, che ora invece viene confezionato, diciamo così, in modi più ghiotti. Altre volte più di rado, certi titoli costituiscono una disfida ideologicamente più significativa. Mi ricordo per esempio che nei primi anni 60 la censura sequestrò il primo film di Tinto Brass, In capo al mondo, lo mondò di alcune sequenze e lo rispedì in prima visione con un altro titolo, Chi lavora è perduto. Chissà quali raffinate argomentazioni e quali metodiche per il più efficace controllo delle masse si celavano dietro questa decisione. All'autore vivente tutto ciò di solito non fa piacere. Il titolo è suo, parte fondamentale della sua creatività, e sarebbe propenso a vincolarlo di diritto all'opera stessa. A me per esempio, ecco, seccherebbe molto che prima o dopo il mio ultimo libretto, L'individuazione e la designazione dell'attività mentale, venisse ristampato come Sesso ai tropici o come Desideri e voglie pazze di insaziabili ragazze. Me ne avrei a male e presumibilmente se ne avrebbe a male anche l'incauto lettore che, per sua disgrazia, dovesse acquistarlo. Ma so bene che nessun autore, per quanto autorevole sia, può nulla contro l'andazzo dei tempi. Nei giorni scorsi, per i truffaldini tipi della Rizzoli, è apparsa la traduzione di The Astonishing Hypothesis. L'inglese sarà così e così, ma vuol dire indubbiamente un'ipotesi sorprendente, che è l'ultimo libro di Francis Crick, quello stesso Crick che nel 1962, insieme a Watson e a Wilkins, ricevette il premio Nobel per la scoperta della struttura tridimensionale del DNA. Questo Crick è un materialista riduzionista convinto. uno che ritiene la materia cerebrale, per dirla alla svelta, la materia cerebrale e la sua organizzazione sufficienti per spiegare i fenomeni della coscienza, della mente e del linguaggio. Uno, insomma, che mai in vita sua, nonostante le difficoltà in cui di certo si è imbattuto, ha sposato scientificamente alcuna tesi dualistica. Bene, bene. Questo suo ultimo libro, un importante libro sull'origine della coscienza, è stato pubblicato con il titolo di La scienza e l'anima. È un tragico segno dei tempi, eh? Il ritorno della barbarie e dei suoi lugubri simulacri ideologici, la testimonianza del fatto che anche laddove proprio proprio non c'è, è il padrone a metterci il soffio vitale che occorre. Così, diciamo che non proprio tutto mi sta bene. Opera ed autore proseguiranno scissi in quel mercato immondo che li aspetta e dovranno sottostare alle manipolazioni del caso, vabbè. Da un certo punto di vista, adontarsene è semplice moralismo e rifugio in certi diritti che nessuno ha mai promesso di garantire, ma da un altro punto di vista adontarsene è doveroso. Si tratta di una cultura contro un'altra, di una concezione dell'uomo padrone di sé e consapevole delle proprie responsabilità contro una concezione dell'uomo come anestetizzato delegante, merce, passivo recettore di un mondo bello e fatto e governato per lui in nome e per conto della carne da cannone.